Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Cosa sono le ESCO? Che servizi offrono e soprattutto come si fa a trovarle? Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt, che questa sera parte da una domanda di una nostra ascoltatrice che qualche settimana fa è andata in cerca di questa tipologia di aziende di servizi energetici senza molto successo. Perché ci interessa approfondire questo argomento? Perché, come vedremo, le ESCO sono quelle aziende alle quali la normativa italiana ed europea conferiscono specifici strumenti per effettuare operazioni di efficientamento energetico, con vantaggio sia per le ESCO stesse che per coloro che usufruiscono dei servizi delle ESCO. Insomma, le ESCO sono il cardine intorno al quale molte operazioni volte al risparmio energetico dovrebbero ruotare. Ne parliamo con Dario Di Santo, direttore di FIRE, ovvero la Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia. Buonasera Di Santo. Buonasera. Dunque, ci aiuti a capire quali sono i cardini attorno ai quali ruota il concetto di ESCO. Abbiamo detto che sono aziende che offrono servizi energetici. Che altre caratteristiche devono avere? Sì, indubbiamente, il nome stesso lo dice, è un'azienda che offre servizi energetici, quindi non vende ad esempio un prodotto, una caldaia, ma gestisce tutto dall'investimento alla manutenzione e gestione ottimale della tecnologia. Poi che altro fa? Fondamentalmente viene data una garanzia sui risultati, ossia la ESCO fa un contratto con l'utente, ad esempio un condominio, e dice: bene, io ti garantisco che avrai un risparmio del X%, dove questo X% dipenderà dalle caratteristiche dell'utenza considerata. Quindi deve presentare un progetto la ESCO. Esattamente. Fare un'analisi della situazione energetica e presentare un progetto che prevede l'applicazione di determinate tecnologie. Perfetto. Questo verrà fatto attraverso un'apposita valutazione dei consumi dell'esistente e poi una valutazione di possibili interventi. Mm-hmm. Ecco, una cosa fondamentale nel servizio, l'ESCO dovrebbe avere un approccio integrato, ossia, sempre per stare nel condominio, io non mi limiterò a dire potete cambiare la caldaia e metterne una migliore, ma dirò anche se avete degli infissi vecchi, prima cambiate gli infissi, mm-hmm. così il vantaggio è doppio, non solo c'è il risparmio energetico degli infissi, ma la caldaia costerà di meno perché sarà più piccola e nello stesso tempo consumerà di meno, quindi avremo un vantaggio complessivo. Oltre a questo, sono in grado di offrire un'anticipazione degli investimenti, in alcuni casi sono loro stesse a fare un investimento, in altri casi invece svolgono un po' da parte di garanti nei confronti delle banche, aiutano l'utente finale ad ottenere questo finanziamento dalle banche. Ecco, perché le ESCO si pagano il proprio investimento nel momento in cui lo fanno in prima persona, per così dire, grazie proprio al risparmio energetico. Una quota di questo risparmio energetico entra nelle tasche della ESCO. Esattamente, è proprio così. Tornando invece alla questione dei finanziamenti, l'ideale sarebbe che fosse la ESCO a farsi carico di tutta la procedura, ma c'è qualche difficoltà anche legata, insomma, alle banche, che non sono molto attrezzate, se ho capito bene. Sì, dipende, esistono varie difficoltà. Una è che non tutte le ESCO sono tanto grandi da potersi permettere di andare dovunque e mettere i soldi in prima persona, chiaramente. Due, c'è anche un fatto, la ESCO sarà tanto più invogliata ad intervenire direttamente quanto più veloce rientra l'investimento che viene fatto. Ora, in un condominio normalmente stiamo parlando di 5-7 anni, non sempre è appetibile per una ESCO mettere direttamente i soldi in prima persona. Quindi è chiaro che a quel punto spesso il finanziamento va fatto con la banca, ma non è niente di trascendentale. Insomma, non deve preoccupare, perché in genere il risparmio che viene garantito dall'intervento consente in qualche modo di ripagare l'esborso delle rate del finanziamento. L'idea di base è: io ho del risparmio garantito dall'intervento, questo risparmio mi può pagare in alcuni casi in tutto quelle che sono le rate che dovrò pagare alla banca per il finanziamento. Quando finisco di pagare queste rate, un contratto potrà durare 5-7 anni, dipende dai casi, a quel punto io però mi ritrovo solamente dei vantaggi. Certo. Ho un impianto che consuma di meno e quindi ho solamente il risparmio. Quindi non bisogna spaventarsi se viene chiesto di accendere un mutuo come condominio. No, l'unica cosa è che un po' per volta le banche si spera si attrezzino per offrire un pacchetti di finanziamento di interventi di efficienza energetica sempre migliori. Ecco, anzi, forse qui c'è un'opportunità per alcuni istituti di credito. Assolutamente sì, perché sono interventi molto interessanti che presentano delle caratteristiche sicuramente migliori di altri come il fotovoltaico, che vanno tanto di moda, insomma. Dunque, una delle difficoltà che si incontrano in questo momento è proprio nell'identificare le ESCO. Ci aiuti, come dire, a immaginare un algoritmo che possiamo mettere in pratica per andare a beccare queste ESCO, per capire se certe società di servizi energetici sono, fanno questo servizio di ESCO? Sì, allora, come le trovo? Non è banale. Diciamo che esistono alcuni elenchi disponibili su internet. Sì. Uno che ha creato anche un po' di confusione in passato è quello che si trova sul sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, legato al meccanismo dei certificati bianchi, che però non è, attenzione, un elenco di ESCO e neanche un albo, è un elenco che riporta società che operano nel mondo dell'energia. Alcune di queste sono ESCO, ma la maggior parte non sono realmente ESCO. Poi esistono altri elenchi, ad esempio uno è curato dal Joint Research Center di ISPRA, anche questo è accessibile via web, e questo riporta invece un elenco di ESCO operanti in Italia. Poi che altro posso fare? Beh, intanto posso informarmi, posso chiedere a quelli che sono gli operatori che attualmente offrono il servizio calore. Diciamo che una parte di questi si è attrezzata per offrire anche il servizio di ESCO. Bene, grazie Dario Di Santo. Un consiglio prima di lasciarci. Se pensate di ricorrere ai servizi dell'ESCO, fatevi fare più preventivi. Le offerte che le singole aziende propongono, infatti, possono garantire risparmi anche significativamente diversi. Mr. Kilowatt torna domani con l'ultima puntata prima delle vacanze invernali. Parleremo di geotermico. Buona serata.